America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, quota 21.000 superata, anzi quota 21.115 più 1,46%. Beh, come dire, il mercato ha festeggiato questo discorso moderato, pacato, questo discorso di apertura da statista di Donald Trump. Ecco, hanno scoperto gli investitori a Wall Street che Donald Trump può anche essere uno statista. Ma la cosa interessante, attenzione, è che si tratta della terza soglia psicologica superata dal Dow Jones dall'Election Day, cioè dall'8 novembre scorso. Il 22 novembre aveva superato quota 19.000. Vabbè, quello è nell'ordine delle cose perché ci si era già arrivati molto vicini. Il 25 gennaio ha superato 20.000. 25 gennaio, beh, diciamo poco più di un mese fa. E dopodiché, ecco che siamo arrivati oggi a quota 21.000. Dunque, come dire, la borsa è ottimista su Trump. La borsa vale, la borsa cerca di scontare quello che succederà in futuro. Il discorso di Trump, tra l'altro, è seguito da oltre 40 milioni di telespettatori. When we celebrate our 250 years of glorious freedom, we will look back on tonight as when this new chapter of American greatness began. The time for trivial fights is behind us. We just need the courage to share the dreams that fill our hearts. Ecco, questo è un passaggio del discorso di Trump. Ieri, ricorderete, abbiamo fatto una puntata un po' particolare in cui vi ho raccontato del discorso di Trump, ma l'ho messo in un contesto, perché secondo me è importante dare anche un contesto storico a quello che succede. Però, ecco, qui vorrei isolare proprio questo aspetto dello statista, questo aspetto di Trump che improvvisamente appare non come un uomo litigioso, difficile, ma come un uomo invece del dialogo che cerca l'unità del paese. Qui dice: quando celebreremo i 250 anni della nostra nazione, ci guarderemo indietro e ricorderemo questa serata, il momento in cui si è aperto un nuovo capitolo nella storia della grandezza americana. Il tempo delle discussioni superficiali si è chiuso. Dobbiamo avere il coraggio di lavorare insieme ai sogni che risiedono nei nostri cuori. Ecco, il sogno nel cuore di Trump è quello di essere non un presidente americano importante, ma un presidente americano rivoluzionario. E dunque ieri, paradossalmente, ma forse perché c'era la solennità del congresso che era riunito in seduta plenaria, forse perché era nel tempio della democrazia, ma si è tolto i panni del rivoluzionario Donald Trump e ha sorpreso di nuovo il mondo intero comportandosi da statista. Ha ritirato questi suoi artigli affilati con cui cerca sempre di pungere qualcuno, e in effetti il presidente è apparso riflessivo, non emotivo reattivo come è al solito. Di più, dal muro al commercio al terrorismo islamico, ha ridetto le stesse cose che ha detto mille volte in passato, ma è bastato il tono pacato collaborativo a cambiare di colpo la prospettiva. Cioè, prima si poteva avere paura di un Trump che dice noi colpiremo l'immigrazione, e poi invece un Trump che dice ma forse dovremo trovare una soluzione al problema dell'immigrazione. Ecco, beh, cambia completamente la prospettiva. Beh, la domanda è ovvia: è stato solo un calcolo? Si è trattato di un ennesimo patologico passaggio camaleontico, oppure il cambiamento di rotta è reale? Beh, questo lo sapremo nelle prossime settimane, anzi magari già nei prossimi giorni, vedremo se Trump manterrà questo timone o no. Intanto accontentiamoci, perché la novità non è cosa da poco. La notizia ha entusiasmato Washington, la capitale si aspettava un discorso trumpiano tradizionale, un discorso di confronto, ricorderete le bordate del discorso inaugurale. Invece no, nulla di tutto questo, parliamoci nell'interesse del paese, diceva il presidente nel suo discorso. Come vi dicevo, i mercati hanno celebrato, dunque la notizia è molto buona per i mercati, ma la notizia è buona per l'America, questo l'ho sempre detto, perché questo paese è il punto di riferimento per gli equilibri multilaterali e non può permettersi di avere alla Casa Bianca un commander in chief umorale, rancoroso, contrarian, politico, vulnerabile alla prima battuta ostile. Insomma, ma ieri Trump sembrava dire agli americani di essere cambiato, e gli americani a loro volta lo hanno compensato, perché pensate, il 78% dei sondaggi che abbiamo avuto ieri hanno concluso che si è trattato di un ottimo discorso, un altro 74% ha detto che c'è stata una forte spinta all'ottimismo. Persino la CNN, persino il New York Times hanno detto che il discorso non era niente male. Insomma, Trump doveva rientrare nel tradizionalismo per essere apprezzato da tutti. Finally, the chorus became an earthquake, and they were all united by one very simple but crucial demand: that America must put its own citizens first. Ecco, qui di nuovo Trump che parla della sua rivoluzione, cioè la rivoluzione è cominciata come una protesta sommessa, la protesta di famiglie di ogni credo, di ogni religione, alla fine è diventato un terremoto, decine di milioni di persone si sono riunite per chiedere una cosa tanto semplice quanto fondamentale, che l'America metta al primo posto i suoi cittadini. Ecco, la questione è un'altra, ve lo dicevo prima, è un calcolo oppure uno slancio politico ispirato e nuovo? Ma di più, perché dobbiamo chiederci, serviranno queste lusinghe generali alle quali, diciamolo, Trump è particolarmente sensibile, a non fargli fare marcia indietro alla prima occasione? Serviranno a mettere in difficoltà l'anima nera della Casa Bianca, Steven Bannon, che appena l'altra settimana aveva incoraggiato il presidente a definire i media come nemici del popolo? Ecco, io non credo che ci sarà un cambiamento radicale. Trump è Trump, seguendo la sua tecnica, ieri ha sorpreso. I teorici della politica si stanno sbizzarrendo per cercare di capire la filosofia istintiva di questo personaggio dai capelli arancioni e il grilletto facile su Twitter, capace di vincere la nomination repubblicana, distruggere la fortezza politica di Hillary Clinton e dominare la scena da presidente. E una costante c'è, concludono, è l'effetto sorpresa. Per Trump l'effetto sorpresa è un moltiplicatore incalcolabile, perché gli consente di dominare le prime pagine, le aperture dei telegiornali. Nel manuale di Steven Bannon, il suo consigliere cattivo, l'anima nera della Casa Bianca, lo scandalo degli epiteti del suo capo, delle sue battute, della sua aggressività, porta soltanto cose buone. Per questo vi dicevo, la storia di questo mese di presidenza, ma anche delle primarie e delle elezioni, ci dice che un passaggio permanente di Trump nel club degli statisti sarà difficile, perché Trump è molto volatile, cambia in continuazione. Da pessimisti dovremmo pensare che quel discorso amichevole dell'altra sera al Congresso sia stato orchestrato da quel diavolo di Bannon in nome della sorpresa permanente. Beh, da ottimisti accontentiamoci, dovremmo accontentarci del fatto che un cambiamento di tono comunque ci sia già stato. Di certo Washington, i mercati, gli americani illuminati, ma anche tutti nel mondo glielo hanno detto con chiarezza. Donald, ti preferiamo aperto. Soprattutto, ti preferiamo statista. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Pratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come dire, ieri ho fatto un po' un peccatuccio, sono uscito dalla tradizionale canzone americana, ma vi incoraggio ad andarvi a risentire il Chi se ne frega, cercatelo su YouTube, Mario Pratero, Chi se ne frega. Ma chiedendoci oggi qual è il vero volto di Trump, la canzone del giorno non può essere che quella dei Crush Like This, Good or Bad? Well, the people that creep and cheat and lie, they're the ones with the reasons to cry. But I can't mind, it's not a crime, yeah, I just don't want to hear them whine, no, no. You can see it in someone's eyes when they compromise for the false price of what money can't buy. But everything comes to a halt and we're asked to blame. Who was at fault and what were they called and should they be put to shame? Uh-huh. Good or bad? Are you good or bad? You say, why do you ask? Are you good or bad? Are you good or bad? Are you good or bad? It's not as simple as that. Are you good or bad? In a world gone mad. Behind your mask, are you good or bad? Are you good? Are you good or bad? Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!